Buona serata a tutti voi, inizia l'appuntamento del venerdì con la voce di Marco Gravelli su Rock FM, lo spazio è quello di Hard & Heavy Live. Con, come sempre, prendiamo in considerazione degli album live, album o CD, legati a band del mondo hard rock, heavy metal, thrash, speed, eccetera. L'abbinamento di questa sera ci permetterà di proporre i Great White, che sono in arrivo in tutti i sensi, perché il 10 saranno all'Estragon di Bologna e l'11, sempre di febbraio, saranno dal vivo all'Alcatraz di Milano. E poi, nella seconda parte, avremo la formazione degli Angra con un doppio album dal vivo. Prendiamo quindi in esame Great White, ringraziando come sempre il nostro autore Simone che ha preparato la loro biografia e le note legate a questo live, e il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi al numero 1 qua a Milano. L'album si intitola Stage, attenzione perché ne hanno pubblicati tanti dal vivo, questo è il terzo, uscito nel 1995. Si tratta di due differenti concerti, perlomeno le 12 tracce sono state prese da due differenti concerti, 6 il primo e 6 il secondo. Il primo, che si intitola Stage 1, è stato registrato presso il The House of Blues in quel di Los Angeles nel 1994. E la seconda parte invece è stato registrato presso il Celebrity Theater in quelle di Anaheim, sempre in California. Il primo pezzo che andiamo a proporre per la band proprio californiana dei Great White si intitola Can't Shake It, la cui versione in studio si trova nell'album Hooked del 1991. Yeah. Shake It, Great White, direttamente dalla California, e avrete modo di vederli in questo weekend, domenica all'Estragon di Bologna e lunedì 11 all'Alcatraz di Milano. Formazione che abbiamo detto arriva dalla California, si sono formati nel lontano 1982 grazie alla cantante Jack Russell e al chitarrista Mark Kendall in seguito allo scioglimento dei Dante Fox, e oggi sono gli unici membri storici della band che è ancora naturalmente attiva. Per il periodo della registrazione di questo album, che nonostante contenga 12 brani non è doppio, sono estratte, come vi dicevo, da due differenti concerti in California, uno del 93 e uno del 94. La formazione all'epoca era Jack Russell appunto alla voce, Mark Kendall alla chitarra solista, Michael Lordy alla chitarra ritmica e alle tastiere, Howdy Desbrough alla batteria e Teddy Cook al basso. Questa è la lineup per questo album Stage, pubblicato in CD nel 1995. La loro carriera inizia effettivamente nel 1983 con la pubblicazione di un EP intitolato Out of the Night, che vendette ben 20.000 copie e gli valse così un contratto con l'etichetta EMI. Le cose all'inizio non andarono molto bene, poiché l'omonimo album di debutto, uscito nell'84, prodotto dal famoso Michael Wagner, non ebbe successo, quindi la EMI sciolse il contratto. Il gruppo non demorde e così decide di autoprodursi il loro secondo album, Shot in the Dark. Siamo nel 1986, che venne distribuito in America dalla Telegraph Records. Questo lavoro gli valse un contratto con la Capitol, che, strano a dirsi, è una sottoetichetta della EMI, e lo ripubblicò entrando all'82esimo posto nelle classifiche americane, e andarono così in tour insieme ai Dokken, e piano piano la loro notorietà cominciava a salire. Altro brano che andiamo ora a proporre da quest'album, che ripeto si intitola Stage ed è il terzo album dal vivo della loro carriera, il pezzo è Old Rose Motel. La versione in studio la trovate nell'album Psycho City del 1992. Una band dedita al rock and roll, non propriamente hard rock, ma con tante radici blueseggianti. Lo si può sentire non soltanto da questa Old Rose Motel, ma se conoscete la discografia dei Great White sapete che ci sono moltissime canzoni blues nelle loro varie tracklist, di cui si compongono i tantissimi album che hanno pubblicato. Oltre a questo, da segnalare un amore anche per i Led Zeppelin. Hanno pubblicato un album tutto dal vivo solo di cover e un album in studio tutto di cover dei Led Zeppelin, tanto che ogni tanto propongono dal vivo e alcuni loro brani. Magari potrà succedere anche in queste due date italiane. Ad esempio in questo stage noi non l'ascolteremo, ma c'è anche Babe I'm Gonna Leave You, motivo portato tra l'altro al successo proprio da Robert Plant, Jimmy Page e soci. Continuiamo a parlare di loro. Diciamo che dopo la pubblicazione del secondo lavoro Shot in the Dark, il gruppo comincia a riscuotere successo, tanto che con il successivo album Once Bitten arriva alla posizione numero 23 in America e vanno in tour con Twisted Sister e Night Ranger. Visto l'ottimo momento, pubblicano il loro primo album dal vivo, dal titolo Recovery, e siamo nel 1988. Ancor meglio va con il successivo album Twice Shy, che raggiunge la nona posizione in America e che è stato certificato doppio disco di platino, quindi più di 2 milioni di copie vendute. Nella loro carriera arrivano a oltre 6 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Un altro pezzo che andiamo a proporre è un altro loro classico, versione molto lunga, questa Rock Me, che trovate nell'album in studio Once Bitten. Si chiamano Great White dall'album Stage. Yeah. Rock Me dei Great White dal loro terzo album Live Stage. Siete all'ascolto di Rock FM, lo spazio di Hard and Heavy Live, protagonisti in questa prima parte proprio i Great White. Dopo la pubblicazione nel 1991 di un altro album dal vivo intitolato Live in London, arriva il quinto album Hooked, che nelle copie del CD giapponese contiene un altro bonus CD dal vivo intitolato Live in New York, ma solo per il Giappone. Una curiosità riguardo a quest'album è che la prima copertina, che raffigurava una donna nuda appesa ad un'ancora, fu censurata. Furono costretti a cambiarla, facendo sì che la ragazza praticamente fosse immersa nel mare. Con l'arrivo, purtroppo, poi, come spesso lo segnaliamo, della musica grunge, la loro notorietà cala lentamente, tanto che i loro album pubblicati in seguito non entrarono nemmeno nelle classifiche di vendita. E alla fine del 2001 la band quindi si scioglie. Il cantante Jack Russell intraprese una carriera solista che fino al lo portò, diciamo, alla fine del 2002 a rincontrare nuovamente e collaborare col chitarrista Mark Kendall. Decisero comunque di utilizzare a quel punto di nuovo il nome Great White. Purtroppo, e molti di voi lo conosceranno, il 20 febbraio del 2003 una tragedia durante un loro concerto da headliner negli States, forse il locale un po' troppo basso di altezza, loro hanno utilizzato degli effetti pirotecnici sbagliando decisamente alcune cose e il locale ha preso fuoco, ci furono quasi un centinaio di vittime, tra cui anche il chitarrista Ty Longley. Per quanto riguarda la loro discografia, l'ultimo album in studio è stato Back to the Rhythm, uscito proprio alla fine del 2007. Arriviamo al termine quindi della prima parte di Hard and Heavy Live, protagonisti Great White con il loro top, il singolo Top 5, è arrivato nei primi 5 posti delle classifiche USA, si intitola Once Bitten Twice Shy, è proprio uno dei singoli estratti dall'album Twice Shy. Chiudiamo quindi con questa canzone lo spazio dedicato ai Great White e nella seconda parte troveremo la formazione brasiliana degli Angra. Don't worry, it's all so cold. Se soltanto ora avete acceso il vostro apparecchio radiofonico, benvenuti, siete su Rock FM, la voce di Marco Gravelli, lo spazio del venerdì di Arden Davy Live. Si è concluso e vi siete persi lo spazio con i Great White nella prima mezz'ora. In questa seconda mezz'ora andiamo in Brasile, esattamente a San Paolo, dove è stato registrato praticamente questo lavoro. Si parla degli Angra, l'album si intitola Rebirth World Tour Live in San Paolo, è uscito nel 2002, questo doppio CD è il loro secondo album dal vivo, anche se il primo in realtà era soltanto un EP e per questo non l'abbiamo scelto da proporlo, anche se lì c'era André Matos come vocalist e si intitolava Holy Live. Come suggerisce il titolo, vi lo dicevo, è stato registrato nel 2001 a San Paolo durante il tour di supporto al quarto album Rebirth ed è uscito anche in versione DVD, oltre che questo doppio CD. La versione doppio CD ha in tutto 18 tracce, delle quali 3 sono intro interludio, una è una solo di batteria e l'ultimo è la cover di The Number of the Beast degli Iron Maiden. Infatti agli Iron Maiden gli Angra sono in qualche modo collegati, dato che entrambi i cantanti, sia André Matos che Edu Falaschi, avevano partecipato alle selezioni per sostituire Bruce Dickinson. La versione DVD dapprima era venduta singolarmente e successivamente è stata allegata come bonus DVD al quinto album Temple of Shadows. La formazione di questa registrazione: Edu Falaschi alla voce, Kiko Loriero e Rafael Bittencourt alle chitarre, Felipe Andreoli al basso, Aquiles Priester alla batteria. Andiamo ad ascoltare il primo brano, è Nothing to Say, la versione studio con Andrea alla voce, qui è naturalmente proposta da Edu, si trova nel secondo album intitolato Holy Land. Nothing to Say, registrato dal vivo il 15 dicembre del 2001, pubblicato l'anno seguente questo Rebirth World Tour dal vivo in San Paolo. Il pezzo era Nothing to Say, primo brano della scaletta degli Angra, almeno nella nostra selezione, non tanto in quella del concerto. La band, abbiamo detto, nasce e arriva dal Brasile, dove è famosissima al pari dei Sepultura, è famosa anche nel panorama metal sia europeo e soprattutto anche quello giapponese. Il gruppo si è subito imposto all'attenzione del pubblico e della stampa sin dagli inizi e che a metà carriera ha però conosciuto anche dei periodi di crisi. Per quanto riguarda le origini, loro nascono nel 1991 con il bravissimo cantante André Matos, diplomato al conservatorio, e aveva già inciso due album con i Viper. I due chitarristi sono Bittencourt, ex Spitfire, e Kiko, il bassista Mariutti, ex Firebox, e il batterista Antunes, che presto però lascerà la band. È grazie ad un demo dal titolo Reaching Horizon del 1992 che ottengono un contratto per la pubblicazione in Giappone del loro album d'esordio Angel's Cry nel 1993, considerato un caposaldo del power metal di stampo sinfonico e progressivo. Da notare che in quest'album alla batteria vi è Alex Holdsworth dei Seagulls Even, attualmente batterista dei nostri Rhapsody of Fire. Le registrazioni avvennero negli studi di Kay Hansen dei Gamma Ray. Inoltre la produzione era curata dall'allora sconosciuto come produttore Sasha Perth, che militava negli Heaven's Gate, mentre oggi è uno dei più quotati nel campo del power metal e non solo. L'album ottiene il disco d'oro in Giappone, gli valse anche la pubblicazione in Europa, qui in Italia se ne occupò brillantemente la Lucrezia Records e proprio Rock FM fece anche la sua parte per promuovere questa band. Questo successo gli valse anche una data di supporto in Brasile agli AC/DC. Altro brano che andiamo a proporre si intitola Angel's Cry. Yeah. Days. Angels Cry, dall'omonimo album per la formazione degli Angra, che stiamo proponendo in questa seconda parte di Hard and Heavy con Rebirth World Tour Live in San Paolo, doppio CD e anche DVD. Andiamo e proseguiamo con la storia del gruppo, naturalmente proposta, presentata grazie al nostro Simone, che ha preparato proprio tutta la biografia. Dopo la pubblicazione del loro primo album, appunto Angels Cry, vi è un cambio di batterista con l'ingresso del bravo Confessori e il successo ancora maggiore con il secondo album Holy Land, nuovamente disco d'oro in Giappone, dove venivano accentuati gli inserti tipici del suono brasiliano e le parti orchestrali. Questo album li portò anche alla prima edizione del Gods of Metal nel 1997 come vice headliner. Le cose cominciano però a non andar bene con il terzo album Fireworks, siamo nel 1998, si distaccava musicalmente dai due precedenti lavori e questo portò alla separazione nel 2000. Infatti il cantante André Matos e la relativa sezione ritmica lasciano la band per creare gli Shaman. Al loro posto entrano Edu Falaschi alla voce, proveniente dai Symbols, con i quali aveva già inciso due album, Felipe Andreoli al basso e Aquiles Priester alla batteria, entrambi provenienti dalla band di Paul Di'Anno. Arriva così nel 2001 il nuovo quarto album Rebirth, prodotto come questo album dal vivo dal bravo Dennis Ward, che cerca di riprendere le sonorità dei primi due lavori con buoni risultati e al quale segue il tour e questo live che stiamo presentando. Altro brano classico del gruppo, anche in questo caso si trova sul loro primo album Angels Cry, il motivo si intitola Carry On. Yeah. Carry On, sicuramente uno dei loro cavalli di battaglia per la formazione degli Angra. Con questa formazione, Edu Falaschi alla voce, Chico Loriero alle chitarre, Rafael Bittencourt alle chitarre, Felipe Andreoli al basso. Abbiamo detto appunto Aquiles Priester alla batteria come special guest. Avete sentito sicuramente degli insert di tastiere. Come special guest alle tastiere, Fabio Laguna. Entriamo nella fase finale della storia della formazione. Andiamo proprio a parlare del 2004, quando esce l'ottimo album Temple of Shadow, che vede la presenza di diversi celebri special guest. Tutto sembra andar bene. Poi nel 2006 arriva il loro ultimo album, Aurora Consurgence, che in parte ha deluso le aspettative. Non tutti si aspettavano un sound così pesante, soprattutto per le parti di chitarra. Magari quando rivedremo Chico glielo chiederemo. La band ha suonato nel 2006 comunque per la quarta volta al Gods of Metal, e in tema live, queste sono delle novità appena arrivate, in tema live appunto, il Chico, che ha già comunque pubblicato due album strumentali solisti, arriverà dal vivo nel mese di marzo per tre date. Il 18 sarà al Music Drum di Milano, il 19 al New Age di Roncade Treviso, il 20 marzo al Fillmore di Corte Maggiore, provincia di Piacenza. Ad accompagnarlo ci sarà Felipe Andreoli degli Angra stessi al basso, e soprattutto il bravissimo batterista americano Mike Terrana dai Savage Circus Masterplan, che ha già lavorato con Malmsteen, con In Rage e chi ne ha più ne metta. Ecco, anche nell'ultimo album di Taria c'è lui, eccetera. Quindi con questa formazione Chico si presenterà dal vivo per queste tre date. Io invece mi congelo da voi con l'ultimo brano, che si intitola Make Believe. La versione in studio si trova in Holy Land, il loro secondo lavoro. Ringrazio Simone, il nostro autore, lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi alla numero 1 qua a Milano. Ringrazio naturalmente e soprattutto voi che mi avete seguito. Ci ritroveremo il prossimo lunedì, sempre su Rock FM, dalle ore 20 alle 21, per un altro appuntamento con Hard & Heavy. Ciao ciao!